Sicuramente la legge 194 nel 78 è stato un passo avanti perché ha dato la possibilità di uscire dall'aborto clandestino, però già la legge nel 78 era una legge fatta sul compromesso con i cattolici e quindi già da allora era una legge molto molto limitata. A 40 anni di distanza però noi ci siamo resi conto che alcuni limiti, in particolare l'obiezione di coscienza o la possibilità di dover attendere 7 giorni per avere l'aborto, ci davano un quadro di una legge che non era adeguato a quella delle nostre rivendicazioni e per questo abbiamo deciso di inventare lo slogan molto più di 194. Le rivendicazioni che fate sono diverse, ce le puoi elencare? Sicuramente riguardo al testo di legge, noi siamo contro l'obiezione di coscienza, appunto i 7 giorni di riflessione di cui parlavo prima, ma anche la possibilità che per esempio i dei gruppi cattolici e pro-life entrino nei consultori. La nostra rivendicazione però va anche oltre la legge, per cui noi chiediamo anche la contraccezione gratuita, perché ci sembra assurdo che in Italia l'aborto sia gratuito e la contraccezione no, e poi chiaramente un piano di educazione sessuale, l'affettività e le differenze nelle scuole e nelle università. C'è anche, come dire, la questione di allargare il concetto della salute sessuale, quindi è uscire da un approccio eteronormato, insomma. Sì, certo, noi ci rendiamo conto che l'approccio della legge è prettamente binario, anche rispetto alla donna. In molte parti della legge la legge, diciamo, tutela la donna solo in quanto madre o comunque futura madre. Quindi noi vogliamo uscire da questa dinamica e vogliamo dire che l'approccio della salute deve essere una salute intesa come benessere e che quindi si può adattare a tutte le soggettività e che riguardo alla donna, la donna non deve essere vista soltanto come madre, ma appunto noi rivendichiamo la possibilità di avere diritti non riproduttivi. Ritorno un attimo sulla questione dell'obiezione di coscienza, perché abbiamo picchi in Italia del 90%, addirittura del 100%, con una media nazionale del 70%, quindi di fatto il diritto all'interruzione di gravidanza non è garantito ovunque. No, non è garantito ovunque, e tra l'altro ci sono moltissimi medici, moltissimi ginecologi che non lo fanno per motivi etici, religiosi, morali, ma lo fanno soltanto per una convenienza economica, perché non fare aborti ti permette di fare più carriera, di fare più pubblicazioni, e quindi è una struttura che appunto non garantisce nessun servizio, ma non li può garantire in questo modo. Se noi per esempio siamo contro l'obiezione di coscienza proprio perché abbiamo visto che in Italia questa misura non funziona, a differenza di altri paesi dove l'obiezione di coscienza c'è, ma è appunto limitata ai casi che veramente lo vivono con appunto una questione di fede, una questione religiosa, e quindi non crea un danno. In Italia non ha, visto che facevi il raffronto anche con altri paesi europei, non ha preso molto piede la pillola RU486? No. Infatti un'altra delle nostre rivendicazioni è l'uso della pillola RU486, che in Italia è ferma al 15% degli aborti, mentre per esempio in Inghilterra è il 45%, in Finlandia mi pare 80-90%, e poi la possibilità di estendere la pillola oltre 49 giorni, perché adesso quella pillola abortiva, che è un modo di abortire molto più sicuro, che non porta all'ospedalizzazione della donna, non dover fare interventi, e quindi chiaramente dà tutta una visione diversa della pratica abortiva, al momento in Italia si può prendere solo fino a 49 giorni, che quindi è molto poco, e noi quindi chiediamo l'estensione fino a 63. Oggi in Piazza Verdi svolgerete una giornata di attivazione verso quello che poi è la manifestazione di sabato, giusto? Sì, oggi ci sarà un laboratorio di riscrittura della legge 194, appunto noi vogliamo partire dal testo per esprimere le nostre rivendicazioni, poi ci sarà un incontro nel foyer comunale di storia, di racconto storico delle mobilitazioni del 78, e poi uno spettacolo teatrale sempre in piazza. E invece ci vediamo per il corteo sabato alle 16 a Piazza del Nettuno.